loro reportage. Delusione Milano per EMA. Le agenzie UE vanno ad Amsterdam e Parigi. Di Livia Zancaner. Based on today's voting, we selected Amsterdam to be the new seat of the European Medicines Agency and Paris to be the new seat of the European Banking Agency. In base al voto di oggi scegliamo Amsterdam come nuova sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali e Parigi come nuova sede dell'Autorità Bancaria Europea. È stata una stretta competizione. Così lunedì sera il viceministro estone Matti Maasikas annuncia le nuove sedi di EMA ed EBA, scelte con un'estrazione a sorte causa due ex aequo sul finale. Olanda e Francia battono quindi Italia e Irlanda. Ovviamente soddisfatti i due vincitori. Of course, the Netherlands is very pleased with the trust given to us by other European countries. Évidemment, remercier aussi ceux qui ont voté pour la candidature de Paris. Siamo molto contenti. Garantiremo la continuità dell'Agenzia Europea dei Medicinali. È una buona notizia, dice il ministro olandese Albe Zylstra. Ringraziamo chi ha votato per Parigi. Siamo felici di avere la responsabilità di accogliere l'autorità bancaria, gli fa eco la ministra francese Nathalie Loiseau. Grande delusione invece per Dublino, ma soprattutto per Milano, che ricordiamo ospita due delle circa 30 agenzie europee, l'autorità per la sicurezza alimentare a Parma e il Centro per la Formazione Professionale a Torino. C'era una grande palla trasparente con due piccoli bussolotti, è toccato a me estrarre a sorte, racconta Maasikas. Nella gara per EBA al primo turno passano Parigi, Francoforte e Dublino, al secondo i tedeschi rimangono indietro ed è testa a testa tra irlandesi e francesi che vanno al ballottaggio con 13 voti a testa, ma la beffa maggiore per l'Italia. La partita per EMA è infatti la più complicata con 19 candidature, scese a 16 dopo il dietrofront di Dublino, Malta e Zagabria. Milano vince il primo round, seguita da Amsterdam e Copenaghen. Al secondo turno, capolista sempre il capoluogo lombardo, secondi gli olandesi. Il terzo si chiude con un pari merito, 12-12, con la Slovacchia che, esclusa Bratislava, si astiene e lascia la sede del Consiglio. Il sorteggio è inevitabile. Assurdo essere esclusi per un bussolotto, commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che parla di accordi politici, segno di un'Europa che non sa decidere, le parole del governatore della Lombardia Roberto Maroni. È veramente un po' assurdo essere esclusi perché si pesca un bussolotto, perché così è avvenuto, da quello che ci ha raccontato dopo la votazione, ha rimesso due bussolotti nell'urna, rapidamente ne ha pescato uno, quindi tutto regolare. Tutto regolare sì, però insomma no, normale no. Sono significative le prime due votazioni e sono significative perché evidentemente, soprattutto dall'inizio, sono venuti fuori i valori veri delle città. Poi è probabile che alla fine sia venuto fuori qualche accordo politico. Questo è sono magre consolazioni, ma è anche la verità. Ripeto, questo uscire così bene dal primo turno, prima appunto degli accordi dell'ultimo momento, sta a significare che c'era una volontà di premiare la candidatura più forte, secondo noi eravamo proprio noi. Nonostante la delusione per il risultato finale, qualcuno mi ha detto è colpa dell'euro. No, non è colpa dell'euro, la monetina, dico. Io poi non faccio dietrologia, non dico che tra il secondo e il terzo turno qualcuno si è mosso per arrivare al pareggio. Ricordo che erano 27 i paesi, uno si è astenuto, se no il pareggio non c'era, se tutti votavano, no? Non dico questo, che si è andati al pareggio per non scontentare nessuno, ma se anche non fosse così, è proprio, io la vedo così, il paradigma di un'Europa che non sa decidere, che non sa assumersi le responsabilità, che lascia decidere ad altri, o ad altri paesi fuori dall'Europa, o al caso, alla fortuna, alla sorte, che è il modo peggiore poi per gestire i rapporti con i paesi. Ma davvero qualcuno ha tradito l'Italia? Davvero ci sono stati accordi sottobanco? Dietro le quinte si parla di un voltafaccia della Spagna. Così spiega ai nostri microfoni il sottosegretario agli affari europei, Sandro Gozzi, presente alle votazioni a Bruxelles. C'è stata ambiguità della Spagna. La Spagna ha voluto fare la sua corsa e negli ultimi giorni gli spagnoli hanno fatto un forcing molto molto forte, addirittura chiedendo al re di Spagna di chiamare vari capi di Stato e di governo. Quindi gli spagnoli, che avevano una candidatura tecnicamente buona, come l'avevano gli austriaci con Vienna, come l'avevano gli svedesi con Stoccolma, come l'avevano i danesi con Copenaghen, hanno tentato di fare la loro corsa e quindi al primo turno non hanno preso impegni. Al secondo turno hanno dato segnali ambigui, contraddittori. Il ministro degli affari esteri, che è anche collega di partito del ministro Alfano, del PPE, aveva detto che la Spagna avrebbe votato l'Italia nel secondo turno, e attorno al tavolo il sottosegretario agli affari europei, che era presente, spagnolo, invece ha detto che avevano un impegno su Amsterdam. Insomma, è stata molto contraddittoria, molto ambigua la posizione spagnola. Però nonostante la Spagna, nonostante l'alleanza nordica che ha compattato Copenaghen e Amsterdam, noi siamo riusciti a sfilare a quel blocco, tra il secondo e il terzo voto, un voto. Non dirò nemmeno sotto tortura quale paese nordico abbiamo sfilato a Amsterdam nel passaggio dal secondo al terzo turno. Il punto è che siamo arrivati 13-13 e che abbiamo perso solo perché la pallina sbagliata è stata estratta. Questa è la realtà. Il meccanismo utilizzato per le votazioni però non piace e gli eurodeputati del PD scrivono a Bruxelles per chiedere un cambio delle regole. Mai più sorteggi e mai più voti segreti, ci racconta l'europarlamentare Patrizia Toia. Noi oggi abbiamo reagito così. Noi abbiamo scritto ai tre vertici europei. Abbiamo detto una cosa che diciamo da tempo, ma oggi la diciamo proprio sotto l'onda, diciamo, di questa amara ferita. Le decisioni del Consiglio non possono più essere segrete quando riguardano l'interesse dei cittadini e non possono essere frutto di un negoziato di cui non si conoscono i termini e non possono avvenire nella segretezza e non possono finire con un'estrazione. È una battaglia che facciamo da tempo. Qualcuno mi ha detto provocatoriamente: avresti scritto quella lettera anche se l'Italia vinceva per ballottaggio? E io onestamente ho detto: forse non l'avrei scritta oggi stesso, perché oggi sarebbe stata la giornata della gioia e della vittoria, ma tra qualche giorno avrei detto: per favore, cambiate le procedure, ve lo chiediamo da tempo. Anche perché le agenzie europee hanno un ruolo importante e costi notevoli che vanno dai 10 ai 90-100 milioni ciascuna, precisa Marco Valli, portavoce 5 Stelle al Parlamento europeo. EBA sul bilancio del 2018 avrà un costo di 14 milioni e mezzo circa per i contribuenti ed EMA quasi 22 milioni. L'indotto, tutto da calcolare, su EMA si parla di quasi 1.000 dipendenti, 900-1.000 dipendenti, quindi poi tutto quello che ne consegue anche di incontri, attività, aziende che vengono per portare appunto il loro interesse, questo genera sicuramente un indotto economico che per Milano sarebbe stato molto importante. Le banche ha un indotto importante, siamo su delle cifre più o meno simili, sono stime, quindi non è che puoi andare a definire correttamente col sale indotto, è ovvio che se non ne prendi neanche una delle due l'indotto è facile a calcolare che è zero. Ormai i giochi sono fatti. L'EBA il 30 marzo 2019, il giorno dopo la Brexit, andrà a Parigi, l'EMA ad Amsterdam. We have 60 months to prepare to be relocated to be ready to operate full speed, hopefully, in Amsterdam the 30 of March 2019. Abbiamo 16 mesi per prepararci al trasloco, osserva Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Agenzia del Farmaco. La sfida maggiore è salvaguardare un'attività che è di beneficio per tutti i cittadini dell'Unione. La nuova ospite, Amsterdam, offre ottimi collegamenti, alberghi, alloggi e infrastrutture. Probabilmente però perderemo il 19% dello staff, pari a circa 200 persone, spiega Rasi. Questo in base alla previsione più ottimista di un rapporto interno condotto nei mesi scorsi. Confidiamo nel fatto che la Francia sosterrà l'autority nell'assicurare una transazione facile, cruciale per continuare a perseguire gli obiettivi di mantenere una stabilità finanziaria nell'Unione Europea e salvaguardare l'integrità, l'efficienza e il funzionamento ordinato del settore bancario, scrive l'EBA. Assegnate le due agenzie, ora la partita si sposta all'Eurogruppo, prima data utile per la nomina del nuovo presidente, il 4 dicembre. Non abbiamo mai fatto legami tra EMA e presidenza dell'Eurogruppo, sottolinea l'italiano Gozzi. Non è mai stato fatto un legame tra EBA e Eurogruppo, non c'è mai stato accordo, tanto che hanno corso insieme. Ricordo che Francoforte si è qualificata al primo turno e Francoforte è stata invece pesantemente sconfitta al secondo turno, quindi la Germania ha fatto la sua corsa ed è stata sconfitta, così come ha fatto la corsa su EMA, su Bratislava, la Germania, ed è stata sconfitta. Quindi non c'è stato nessun accordo, anzi, c'è stata una competizione serrata tra francesi, tedeschi e irlandesi, così come è stata serrata tra noi, gli olandesi e i danesi. La partita dell'Eurogruppo nessuno, certamente l'Italia, non l'ha mai fatto, non ha mai legato la decisione sull'Eurogruppo alle decisioni sulle agenzie. E adesso vediamo, noi riteniamo che l'Eurogruppo vada garantito un equilibrio politico. Tusk, presidente del Consiglio europeo del PPE, Juncker, presidente della Commissione del PPE, Tajani è stato eletto al Parlamento europeo, sostenuto moltissimo anche da tanti deputati italiani di altri gruppi, ma è del PPE. E l'Eurogruppo dovrebbe essere affidato, secondo noi, a un esponente della famiglia socialista o a un candidato sostenuto dal gruppo dei socialisti e democratici. Questa è la nostra posizione, vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come si sviluppa il negoziato. Vedremo dunque chi la spunterà e se l'Italia candiderà il ministro Padoan. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Euro Reportage. Collaborazione con Euronet Plus.